ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La parete di Marlene Haushofer. Traduzione di Ingrid Arbeck. Eravamo già a metà agosto. La breve estate alpina sarebbe finita presto. Piove per altri 2 giorni e il temporale continuò a brontolare sommessamente in lontananza. Il terzo giorno un sipario di nebbia bianca calò nel prato. Non si vedeva una sola montagna e gli abeti parevano mozzi. Ripresi a condurre Bella al pascolo, quell'aria fresca e umida sembrava giovarle. Mi dedicai alla pulizia di casa e al cucito e attesi che il tempo migliorasse. Il 5° giorno, dopo la tempesta, il sole squarciò infine il bianco sipario di nebbia. Lo so con certezza perché l'ho annotato sul mio calendario. A quel tempo ero ancora piuttosto comunicativa e le mie annotazioni erano frequenti. Dopo quel grande temporale, il caldo non tornò più. Il sole in realtà splendeva e la legna riuscì ad asciugare, ma il paesaggio prese improvvisamente un aspetto autunnale. Sulle pareti madide della gola fiorirono le genziane a stelo lungo e all'ombra dei cespugli spuntarono i ciclamini. In montagna i ciclamini talvolta fioriscono già a luglio e pare sia l'inizio di un inverno precoce. In questo fiore il rosso dell'estate e l'azzurro autunnale si fondono in un rosa violaceo e il suo profumo racchiude un'ultima volta tutta la dolcezza svanita. Eppure, fiutandolo abbastanza a lungo, traspare un odore molto diverso, un odore di decomposizione e di morte. Il ciclamino mi è sempre parso un fiore molto singolare e un poco inquietante. Tornato a splendere il sole, mi precipitai sulla legna. Spaccarla era più facile che segarla e feci rapidi progressi. Questa volta però non attesi che una montagna di ciocchi ricoprisse il terreno. Tutte le sere sistemavo la legna spaccata sotto la veranda, accatastandola in bell'ordine. Non volevo venir sorpresa un'altra volta dalla pioggia. Molto lentamente imparai a introdurre un certo sistema in tutti i miei lavori e ciò mi rese la vita un poco più facile. In realtà, la mancanza di pianificazione non è mai stato uno dei miei difetti. Eppure mi ero trovata raramente in condizione di poter realizzare i miei progetti perché, con certezza matematica, si era sempre presentato qualcuno o qualcosa a impedirne l'esecuzione. Qui nel bosco, nessuno poteva mandare a monte i miei piani. Se fallivo, la colpa era mia e dovevo renderne conto solo a me stessa. Lavorai a spaccar legna fino alla fine d'agosto. Le mie mani finirono per abituarsi. Erano sempre piene di schegge che ogni sera estraevo con la pinzetta. Prima, con quella pinzetta, usavo depilarmi le sopracciglia. Ora le lasciavo crescere ed erano diventate folte, molto più scure dei miei capelli, conferendo un'aria cupa al mio sguardo, ma intenta com'ero a rimettere in ordine le mie mani tutte le sere, non me ne curai troppo. Fui molto fortunata. Mai capitò che una scheggia formasse del pus. Solo raramente comparivano piccole infiammazioni, che trattate con la tintura di iodio guarivano durante la notte. In fondo, il lavoro della legna mi impedì di godere la bellezza di quella tarda estate. Non vedevo nemmeno il paesaggio, tanto mi ossessionava il pensiero di accatastare una sufficiente provvista di legna. Appena sistemato l'ultimo ciocco sotto la veranda, raddrizzai la schiena e decisi di occuparmi un poco di me stessa. È strano che la mia soddisfazione per un lavoro compiuto sia sempre così scarsa. Appena terminato lo dimentico, per rivolgere i miei pensieri a nuovi compiti. Nemmeno quella volta approfittai della sosta prevista per riposarmi. Era sempre così. Mentre faticavo, sognavo di rilassarmi tranquillamente seduta sulla panca, ma appena mi mettevo a sedere, venivo presa dall'ansia e incominciavo a guardarmi attorno in cerca di nuovo lavoro. Non credo nascesse da uno zelo particolare, di natura sono piuttosto indolente. Con ogni probabilità si trattava di un'autodifesa, perché cos'altro avrei fatto durante il riposo se non ricordare e arrovellarmi il cervello. Ed era esattamente ciò che non dovevo fare. Quale altra soluzione avevo dunque se non rimettermi a lavorare? Il lavoro del resto non dovevo andarlo a cercare. Si offriva da solo in maniera abbastanza invadente. Dopo 2 giorni trascorsi a perdere tempo in casa, lavando e rammendando la biancheria, Mi accinsi ad accomodare la strada. Armata di pala e rampone, mi avviai verso la gola. Senza una carriola non potevo fare molto. Spaccai dunque la strada col rampone, ripartendo il pietrisco in modo omogeneo, e poi la pressai vigorosamente con la pala. Il prossimo acquazzone avrebbe scavato nuovi rivoli e io sarei tornata a riempirli e a pestarli. Sentivo molto la mancanza di una carriola, ma a questo Ugo non aveva pensato. D'altronde, non aveva mai pensato di dover accomodare una strada con le proprie mani. Credo avrebbe di gran lunga preferito comprarsi un rifugio fortificato. Non aveva osato farlo unicamente perché l'idea gli sembrava sociale e lui ci teneva molto a non apparire tale. Così fu costretto ad accontentarsi di mezze misure, quasi come per gioco, tanto per placare un poco i suoi timori. Ugo, essendo una persona provvista di senso della realtà, certo se ne rendeva perfettamente conto, tuttavia ogni tanto doveva gettare consapevolmente qualcosa in pasto alle sue cupe angosce per poter continuare a vivere e lavorare indisturbato. Le carriole, a quanto pare, non dovevano mai essere comparse nelle sue fantasticherie di sopravvivenza. Per questo oggi la strada si trova in pessimo stato. Io continuo a ripartire il pietrisco esistente, ma col tempo la ghiaia si dirada per lasciare trasparire la nuda roccia. Eppure potrei benissimo accomodare la strada con la ghiaia del ruscello. È unicamente una questione di trasporto. Potrei riempire un sacco di pietrisco, è vero, e trascinarlo fino alla strada sopra dei rami di faggio. Probabilmente 15 sacchi basterebbero, ma è difficile valutarlo. Forse un anno fa mi sarei ancora accollata a questa impresa. Oggi trovo che non ne vale la pena. Trascinare a casa il fieno su per il greto prosciugato d'un torrente è meno faticoso che tirare 15 sacchi di pietrisco fin sulla strada. Il 6 settembre andai a controllare le patate e trovai i tuberi ancora troppo piccoli e il fogliame sempre verde. Dovevo quindi tenere a bada la mia fame ancora per qualche settimana, ma la vista dei piccoli tuberi mi diede nuova speranza. Aver piantato quelle patate invece di consumarle fu come aver gettato le fondamenta per la mia relativa sicurezza odierna. A meno che un cataclisma non distrugga il mio raccolto, non dovrò morire di fame. Anche i fagioli erano quasi maturi e sebbene non tutti avessero germogliato, si erano moltiplicati. Volevo serbarne la maggior parte per la semina. Il mio lavoro iniziava a portare i suoi frutti. Era anche ora, perché dopo la riparazione della strada mi sentivo molto spossata. Piovve per alcuni giorni e mi alzai solo per sbrigare i lavori indispensabili, passando il resto del tempo a letto. Dormivo anche di giorno e più dormivo, più la mia stanchezza aumentava. Ignoro cosa mi accadesse allora. Forse si trattava di una carenza di vitamine essenziali, oppure a indebolirmi era solo l'eccesso di fatica. All'ince tutto ciò non piaceva affatto. Tornava continuamente a cercarmi, dandomi buffetti col muso, e poiché tutte le sue premure risultarono vane, saltò sul letto con le zampe anteriori, abbaiando tanto forte che non fu più il caso di dormire. Allora, per un attimo, l'odiai quasi fosse un negriero. Mi vestii bestemmiando, presi il fucile e mi incamminai insieme a lui. D'altronde era venuto il momento di andare a caccia. Non avevamo più un pezzetto di carne in casa e avevo già dato in pasta al lince le ultime preziose tagliatelle. Riuscì a sparare a un capriolo deperito e il lince fu di nuovo contento di me. Simulai un po' di entusiasmo, mi caricai il capriolo in spalla e tornai a casa. A quel tempo, dopo averci riflettuto a lungo, sparavo quasi esclusivamente a caprioli maschi debilitati. Temevo che la selvaggina, decimata irregolarmente solo nella mia riserva, prendesse il sopravvento per trovarsi tra qualche anno intrappolata in un bosco brucato fino alla devastazione. Per prevenire almeno in parte questa futura calamità, cercavo di sparare solo ai caprioli maschi. Non credo di essermi sbagliata allora. Dopo solo 2 anni e mezzo, già noto più selvaggina di prima. Se mai me ne andrò di qui, scaverò un buco abbastanza profondo sotto la parete per impedire che questo bosco possa mai trasformarsi in una trappola. I miei caprioli, i miei cervi troveranno pascoli sconfinati e abbondanti. Oppure la morte improvvisa. Entrambe le cose sono preferibili alla prigionia in un bosco devastato dalla fame. Ora scontiamo il fatto di aver da tempo sterminato tutti i predatori, per cui la selvaggina non possiede più alcun nemico all'infuori dell'uomo. A volte, se socchiudo gli occhi, vedo il grande esodo dal bosco. Ma sono solo sogni. Evidentemente un essere umano non smette mai di sognare a occhi aperti. Scorticai il capriolo, un lavoro che all'inizio mi era risultato molto faticoso, e misi la carne salata nei secchi sui quali legai dei grandi coperchi. Poi li trasportai a una sorgente, immergendoli fino al bordo nell'acqua gelata. Non si tratta della sorgente che alimenta la mia fontana, da queste parti le fonti sono molto numerose. Sgorga sotto un faggio e si raccoglie in una conca profonda tra le radici, fino a formare un laghetto, da dove scorre per pochi metri per poi sparire di nuovo sottoterra. Uno degli ospiti che Ugo invitava alle cacce, un piccolo omino occhialuto, sosteneva che tutta la catena montuosa, perfino la valle, si erge sopra gigantesche caverne. Ignoro se sia esatto, ma spesso ho visto una sorgente o un piccolo ruscello scomparire sottoterra senza lasciare traccia. Probabilmente quell'omino aveva ragione. Il pensiero di quelle caverne talvolta mi perseguita per giorni interi. Una grande quantità d'acqua si raccoglie là sotto, limpida e filtrata dalla terra e dalla pietra calcarea. Forse nelle caverne esistono anche degli animali, protei e bianchi pesci ciechi. Li vedo nuotare eternamente in cerchio sotto le gigantesche cupole di stalattite. Nessun suono, solo lo stillare e il mormorio dell'acqua. Quale luogo potrebbe essere più solitario? Non vedrò mai quei pesci né i protei. Forse non esistono nemmeno. Vorrei solo che anche nelle caverne ci fosse un po' di vita. Le caverne hanno qualcosa di molto attraente e allo stesso tempo di ripugnante. Quando ero ancora giovane e la morte mi appariva come un'offesa personale, fantasticavo spesso di ritirarmi in una caverna prima di morire perché nessuno potesse trovarmi. Questo pensiero continua a esercitare un certo fascino su di me. È come un gioco che si è amato da bambini e al quale ogni tanto si ripensa volentieri. Io non ho più bisogno di ritirarmi in una grotta prima di morire. Nessuno mi sarà vicino quando morirò. Nessuno fisserà su di me uno sguardo atterrito. Mi palperà o poserà sulle mie palpebre ormai fredde le sue calde dita viventi. Attorno al mio letto di morte non ci saranno sussurri e bisbigli e nessuno mi forzerà a ingoiare le ultime gocce amare. Per un certo tempo ho creduto che al mio lamento funebre avrebbe provveduto Lince. Le cose sono andate diversamente. Ed è meglio così. Lince è al sicuro e per me non ci saranno né voci umane né ululati animali. Nulla mi richiamerà all'antico tormento. Per ora mi piace ancora vivere, ma un bel giorno avrò vissuto abbastanza e sarò contenta che venga la fine. Naturalmente tutto potrebbe anche andare diversamente. Non mi trovo affatto al sicuro. Da un giorno all'altro possono tornare e portarmi via. Estranei che troveranno un'estranea. Non avremo più nulla da dirci. Per me sarebbe meglio che non venissero mai. Allora, durante quel primo anno, non pensavo e non sentivo ancora così. Tutto si è trasformato quasi impercettibilmente. Per questo non oso più fare progetti a lunga scadenza, perché non so cosa sentirò e penserò tra 2 anni, o 5, o 10, e tantomeno riesco a intuirlo. Non mi piace vivere la giornata senza un programma. Sono diventata un agricoltore, e un agricoltore è costretto a pianificare. Probabilmente non sono mai stata altro che un agricoltore inibito. Forse i miei nipoti si sarebbero rivelati dei farfalloni sventati. Già le mie figlie rifiutavano di assumersi qualsiasi responsabilità. Ho cessato di trasmettere la vita e la morte. Anche la solitudine, nostra compagna per tante generazioni, si estingue con me. Non è né un bene né un male, è semplicemente così. E come consumerò i giorni di questo inverno? Mi sveglio all'alba e subito mi alzo. Se restassi a letto incomincerei a pensare. Temo i pensieri nella penombra del mattino e così mi metto al lavoro. Bella mi saluta tutta allegra. Negli ultimi tempi non ha quasi distrazioni. Mi stupisco che riesca a stare notte e giorno tutta sola nella sua stalla buia. So così poco di lei. Forse ogni tanto sogna. Ricordi effimeri, il sole sulla schiena, l'erba succosa tra i denti, Un vitello che preme caldo e odoroso al suo fianco, la tenerezza, un muto colloquio senza fine nei passati giorni d'inverno. Accanto a lei il fruscio di un vitello nello strame, un alito amico che sale da froge familiari. I ricordi si destano nel suo corpo massiccio per affondare nel lento fluire del sangue. Di tutto questo non so nulla. Tutte le mattine le accarezzo la grossa testa, le parlo e vedo i suoi immensi occhi umidi guardare la mia faccia. Se fossero occhi umani li troverei un po' folli. La lampada si trova sul piccolo fornello. Al suo chiarore dorato, prima di mungerla, lavo le mammelle di Bella con l'acqua calda. Ha ripreso a dare un po' di latte, non molto, ma sufficiente per me e per la gatta. E io continuo a parlarle. Le prometto un nuovo vitello, una lunga estate calda, dell'erba verde e fresca, caldi scrosci di pioggia a scacciare le mosche, e torno a prometterle un vitello. E lei mi guarda con i suoi occhi miti e folli, preme contro di me la larga fronte e si lascia grattare gli attacchi delle corna. Sono calda e viva, e lei avverte che le voglio bene. È tutto quanto riusciremo a sapere l'una dell'altra. Dopo la mungitura pulisco la stalla e la fredda aria invernale entra a fiotti. Non arieggio mai più del necessario, la stalla è già comunque fredda. L'alito e il calore di una mucca producono solo poco tepore. Stendo davanti a Bella il fieno profumato e frusciante. Riempio il secchio d'acqua e una volta alla settimana le spazzolo il pelo corto e lucido. Poi mi prendo la lampada e per una lunga giornata l'abbandono nella penombra. Ignoro cosa succeda quando lascio la stalla. Mi segue a lungo con lo sguardo oppure sprofonda in un tranquillo dormiveglia fino a sera. Se solo sapessi come scavare il vano della porta nella camera da letto. Ci penso tutti i giorni quando la devo abbandonare tutta sola. Le ho anche già parlato di questo progetto e nel bel mezzo del racconto lei mi ha leccato la faccia. Povera Bella. Poi porto il latte in casa, attizzo il fuoco e preparo la colazione. La gatta si alza dal mio letto, si incammina con aria solenne verso il suo piatto e beve. Poi si ritira nella nicchia della stufa a lavarsi il pelo invernale. Da quando Lynch è morto, la gatta durante il giorno dorme nel posto che era suo, sotto la stufa calda. Non ho il cuore di scacciarla. D'altronde è meglio così, piuttosto di dover vedere quella cavità triste e vuota. Al mattino ci parliamo appena. A quell'ora è spesso imbronciata e non molto comunicativa. Spazzo la stanza, porto in casa la legna per la giornata. Nel frattempo si è fatto chiaro quel tanto di chiarore che ci può essere in una grigia mattinata d'inverno. Le cornacchie calano gracchiando nella radura e si posano sugli abeti. Allora so che sono le 8:30. Se ho dei rifiuti, li porto nella radura e li depongo sotto gli abeti. Se devo lavorare all'aperto, spaccare legna, spalare la neve o rifornirmi di fieno, indosso i calzoni di cuoio di Ugo. Mi è costata molta fatica ridurli alle mie misure attorno alla vita. Mi arrivano fino alle caviglie e mi tengono caldo anche nei giorni freddissimi. Dopo colazione, quando ho rigovernato, siedo al tavolo per scrivere la mia cronaca. Potrei anche dormire, ma non voglio. La sera ho bisogno di essere abbastanza stanca per potermi addormentare di colpo. D'altra parte, non posso nemmeno far ardere troppo a lungo il lume. Già l'inverno prossimo dovrò ricorrere alle candele di sego, ho già provato, emanano un odore repellente. Ma dovrò abituarmi anche a questo. Verso le 4, quando accendo il lume, la gatta sguscia da sotto la stufa e salta sul tavolo accanto a me. Per un po' di tempo mi osserva paziente mentre scrivo. Il chiarore giallo del lume le piace almeno quanto a me. Sentiamo le cornacchie levarsi in un roco gracchiare dalla radura e la gatta si innervosisce e appiattisce le orecchie. Appena ha ritrovato la calma, ecco venuto il nostro momento. La gatta, con una delicata zampata, mi toglie la matita di mano per allungarsi sopra i fogli già scritti. Allora l'accarezzo e le racconto delle vecchie storie, oppure le canto qualcosa. Non so cantare molto bene, lo faccio solo a mezza voce, intimidita dal silenzio del pomeriggio invernale. Ma la gatta apprezza il mio canto. Ama i toni gravi e solenni, soprattutto i canti religiosi. Detesta le note acute, esattamente come me. Quando ne ha abbastanza, smette di fare le fusa, e io taccio immediatamente. Il fuoco crepita e scoppietta nella stufa. E se nevica, seguiamo insieme il turbinare dei grossi fiocchi. Se piove o tira vento, la gatta propende alla malinconia e io cerco di rallegrarla. Ogni tanto ci riesco, ma per lo più sprofondiamo entrambe in uno sconsolato silenzio. E qualche rara volta succede il miracolo. La gatta si alza, mi sfiora la guancia con la fronte e mi punta le zampe anteriori sul petto. Oppure prende tra i denti la nocca di un mio dito e si diverte a mordicchiarlo delicatamente come per gioco. Non accade molto spesso, perché è molto parsimoniosa nel manifestare la sua simpatia. Alcune canzoni la mandano in estasi e allora muove voluttuosamente gli artigli facendo frusciare la carta. Le si inumidisce il naso e gli occhi si velano d'una pellicola scintillante. Tutti i gatti sono inclini ad avere atteggiamenti misteriosi. In tali casi sono lontanissimi e assolutamente irraggiungibili. Perla era infatuata di un piccolissimo cuscino di velluto rosso appartenuto a Luise. Per lei si trattava di un oggetto magico. Lo leccava da cima a fondo, tracciava solchi nel tessuto morbido e infine vi si stendeva sopra per riposare. Il petto candido sul velluto rosso, gli occhi ridotti a due fessure verdi, uno stupendo animale da favola. Tigre, il fratellastro nato dopo di lei, adorava gli odori. Poteva trascorrere ore davanti a un'erba profumata, i baffi allargati a raggiera, gli occhi chiusi, piccole gocce di saliva sul minuscolo labbro inferiore. Alla fine sembrava dovesse esplodere da un momento all'altro in mille frantumi. A quel punto, con un balzo ardito, trovava scampo nella realtà e fuggiva in casa con la coda ritta e cacciando dei gridolini. In genere, dopo simili eccessi, aveva l'abitudine di comportarsi in modo insolente, come un adolescente sorpreso a leggere una poesia. Ma non si devono mai deridere i gatti, si offendono moltissimo. Con Tigre talvolta non era facile restare seri. Perla era troppo bella perché si potesse ridere di lei, tantomeno oserei mai deridere sua madre. Cosa posso mai capire io dei suoi modi stravaganti? Tutto sommato, cosa capisco della sua vita? Una volta la sorpresi dietro la casa mentre giocava con un topo morto. Doveva averlo appena ucciso. Quello che vidi allora mi convinse che considerava il topo come un adorato giocattolo. Si stese sulla schiena, premendosi quella cosa inanimata sul petto e prese a leccarlo teneramente. Poi, con una spintarella quasi amorevole, lo depose cautamente e riprese a leccarlo, per volgersi infine con dei piccoli lamenti verso di me. Dovevo fare in modo che il suo giocattolo riprendesse a muoversi, senza alcuna traccia di cattiveria o di crudeltà. Non ho mai visto occhi più innocenti di quelli della mia gatta dopo che ebbe finito di martoriare quel piccolo topo. Non si rendeva affatto conto di aver fatto soffrire quella bestiola. Un giocattolo adorato aveva cessato di muoversi e la gatta se ne lagnava. Mi vennero brividi di freddo in pieno sole e provai qualcosa di simile all'odio. Accarezzai la gatta con distacco e mi accorsi che l'odio stava crescendo. Non esisteva qualcuno o qualcosa che avrei potuto odiare per questo. Sapevo che non avrei mai capito né desideravo capire. Avevo paura. Continuo ad avere paura perché so di poter vivere solo se non capisco certe cose. Fu l'unica volta, del resto, che sorpresi la gatta con un topo. Pare attenda la notte per darsi ai suoi terribili giochi innocenti. E io ne sono contenta. Ora è sdraiata davanti a me sul tavolo e i suoi occhi sono trasparenti come un lago sul cui fondo crescano piante finemente ramificate. Il lume arde già da troppo tempo ed è ora di andare nella stalla per passare mezz'ora con Bella prima di doverla nuovamente abbandonare nell'oscurità per una notte. E domani tutto sarà come oggi e come è stato ieri. Mi sveglierò, scenderò dal letto senza dar tempo al primo pensiero di destarsi e più tardi le cornacchie caleranno simili a una nuvola nera nella radura e il loro roco gracchiare porterà un po' di vita nella giornata. Prima di sera leggevo ogni tanto le riviste e i giornali di un tempo. Oggi ho perduto qualsiasi rapporto con loro, mi annoiano. L'unica cosa che mi annoi qui nel bosco sono i vecchi giornali. È probabile che mi annoiassero già prima. Solo non sapevo che quel leggero, costante disagio fosse la noia. Ne soffrivano perfino le mie povere bambine, incapaci di star sole per più di 10 minuti. Eravamo tutti completamente storditi dalla noia. C'era impossibile sfuggire al suo ininterrotto tremolio, al suo rimbombo. Non mi stupisco più di nulla, forse la parete non era che l'ultimo disperato tentativo di un essere torturato che doveva evadere. Evadere o impazzire. La parete, tra l'altro, ha ucciso anche la noia. I prati, i fiumi e gli alberi oltre il suo confine non possono annoiarsi. Il tamburo impazzito si è arrestato di colpo. Laggiù ora si sentono solo la pioggia, il vento e lo scricchiolio delle case vuote. L'odiata voce strepitante è ammutolita. Ma non esiste più nessuno a gioire del grande silenzio. Settembre si mantenne caldo e sereno ed essendomi ripresa dalla stanchezza decisi di tornare in cerca di bacche. Sapevo che la gente del paese era sempre salita all'Alpe a cercare mirtilli rossi. Quei frutti per me sarebbero stati una vera benedizione perché si possono conservare anche senza zucchero. Il contenuto di acido tannico impedisce che si guastino. Il 12 settembre, dopo la prima mungitura, mi incamminai con l'ince. Per maggior sicurezza lasciai Bella nella stalla. La mia unica preoccupazione era Perla, che durante le sue piccole escursioni si era abituata a spingersi fino al ruscello. Pochi giorni prima era tornata con una trota tra i denti e si era sistemata sotto la veranda per consumare il suo pasto. Era orgogliosa e contenta del suo primo successo e avevo dovuto accarezzarla e complimentarmi con lei. E così, tutti i giorni, se ne stava seduta sopra una pietra in mezzo al ruscello, la zampa anteriore destra sollevata ad aspettare. Da lontano il suo pelo riluceva al sole e chiunque avesse occhi era costretto a vederla. Non potevo farci proprio niente. Il sogno del pacifico gatto domestico era finito. Del resto, non ci avevo mai creduto veramente. Né la vecchia gatta, né più avanti Tigre, scendevano mai al ruscello. Avevano entrambi orrore dell'acqua. Perla era venuta un po' fuori dal comune. La vecchia gatta osservava la bizzarra condotta della figlia con disapprovazione, senza tuttavia immischiarsi più nelle sue faccende. Perla era appena adolescente, ma la madre aveva ripreso la sua vecchia vita e quasi non si occupava più di lei. Così la rinchiusi nella camera al primo piano, dove conservavo le cortecce e la legna minuta, lasciandole della carne e dell'acqua. Mi dispiacque, ma non potevo fare diversamente. Manuela Mandracchia ha letto La parete di Marlena Ausofer, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Ornella Bellucci e Filippo Travaglio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.